Certamente. Sentite la voce di Devin che sta parlando piano, ma non piano come crede. Ok. Quando eravamo nella cattedrale di sopra, quello stronzo di maggiordomo. Si è attaccato lui il labbro? Già, ha usato una magia strana, non ho sentito un cazzo, non me la racconta giusta. Perché? Perché me lo stai raccontando? Anche tu sai qualcosa, qualcosa di più di quello che ammetti di sapere. Non saresti così tranquilla se rischiassi di morire come noi. Ti conosco, Claudia. Puoi fottere loro che non sanno niente di te, ma non me, ti conosco da anni. Se anche fosse, pensi di minacciarmi? No, no, no. Ma ho bisogno di sapere. Cosa cazzo sei diventata? Cosa mi manca? Quali pezzetti mi mancano al puzzle? Chi è la principessa? Chi è il maggiordomo? Cosa c'è nella centrale? Ah, caro Devin, cos'è? Cosa c'è? Vuoi fare la fine di Bellatrix? Lo sai che se ne parliamo. So anche che puoi spezzare tutto questo, Claudia. E mi direi tutto. Ma prima devo proporti un affare. Sto ascoltando. Il fottuto maggiordomo abita qui vicino, tre ville più ad est. Io intanto faccio il flash del Sì, anch'io Voi se guardo volete Ender. interrompere sta cosa potete farlo in qualunque No, momento. no, vai, vai, vai. No, io ho avuto solo ha detto il coso Adone è di così dall'inizio della conversione. Tre ville più ad est. Voi Ah, mi prendi per il culo? sentite un fruscio da fuori. Sai cos'è questo? L'ultimo progetto che abbiamo completato prima dei casini del 27. Lurking Curse, Fractal Advisor, una spolverata di magia naturale e pezzetti meccanici. L'ho chiamato l'occhio di Dio. Mi pare modesto. Come sempre, questo gioiellino si attiva al contatto e permette di sapere dove si trova chiunque l'abbia attivato. Hai presente Dux Chestvald Arzesum? Lo zio di Rodvold. Ecco, quelli come lui devono studiare 20 anni, rovinarsi la vita e rimanere sempre lì per imitare il mio Gigino. L'unico difetto è che costa come mezza giornata di attività dalla centrale, ma che ci vuoi fare? Non si può dare un prezzo alla sicurezza. Non penso che Eidos sia così deficiente da non accorgersene. Sei solo un povero illuso. Qui ti sbagli. Non se n'è accorto? Non perché non sia forte o bravo abbastanza, ma perché non c'è niente di cui accorgersi. L'occhio di Dio non lascia nessuna traccia, né magica né di altro tipo, perché non esiste. È tutto dentro la mia testa. Sei diventato coglione, Devin. Quando chiudo gli occhi, vedo dove si trova. Funziona così. Nessun effetto magico, nessuna sciocchezza. Lui ha attivato questa cosa colpendomi e ora lo vedo. Va bene, diciamo che ti credo. Come ci può aiutare questa cosa? So esattamente dove si trova, la sua routine e molto altro. Mi mancano alcuni pezzi. Non posso vedere le persone che gli stanno intorno e non posso vedere i dettagli di ciò che lo circonda. Solo a grandi linee dove si trova e cosa sta facendo. Ma ho triangolato la sua posizione, ho avuto tempo, da quando siamo qui, e so perfettamente dov'è. Non vuoi vedere cosa nasconde? Ah, cazzo, sì, ma se ci prende siamo morti, e se non per merito tuo, per merito dell'impero. Ci serve un piano. E io ho un piano. Includeremo i nostri coinquilini in questa cosa. Gli proporremo delle offerte che non potranno rifiutare. E insieme a noi parteciperanno a questa simpatica rivoluzione. Mi sembra un'ottima idea. Sono sicuro che sia tu che io avremo dei modi per convincerli. Devo ancora aggiustare alcuni dettagli, devo ancora capire come convincerli tutti. Escluderemo Carl che è un coglione, escluderemo Batu che non parla la nostra fottutissima lingua. Insomma, tutto pronto? Bene, non vedo l'ora di vedere cosa faranno questi ospiti. Bene, possiamo tornare di là ancora presto per far finta di niente. Tiro Erindor. Dobbiamo correre piano però perché magari probabilmente. il legno scricchiola, quindi cerco di avere un po' di tatto per mettere i piedi. Apre la porta e vi vede. Porco Dio! Sono messi così. Salve! Questo è molto imbarazzante. Però. Se non fosse un'altra situazione, metto al muro Erin e lo limono, ma no, non sarà quel tipo di situazione. Fanny, Fanny, oggettivamente Fanny. Vabbè, a quel punto sono stati peccati. Guarda, è Adone... inutile girarci attorno. Dico, sì, Adone c'è... si ricompone, fa... Sembravi sospetto fin dall'inizio per quanto mi riguarda, quindi ti ho deciso di seguire. E in quanto e è stato molto fortuito, in quanto mi sembra che abbiamo obiettivi allineati. Ok, parla piano. Cosa avete sentito? Anzi, cosa credete di aver sentito? Credo di aver sentito un uomo progettare un piano alquanto, come si può dire... Oddio, mi manca veramente il termine. Cioè, che ci crede troppo, come si dice. Porca di le parole. Salsare Spied, non so. Che arrogante. Cazzo, no, sì, un piano un po' arrogante. Io faccio notare l'edificio in cui siamo, i muri non è che sono molto spessi. Giusto per dire. Pausa, il problema non sono i muri, il problema... vabbè... È la porta, scusami. Sì, esatto. No? Ma... Ah no, ti dicevi per un rigliare. Un rigliare ormai... Sì. È successo. Nostri amici. No, io dicevo che intorno alla casa c'è un cerchio che vi sigilla lì dentro. Ah, ok. Sì. Va bene. Ma l'avevo... Ok, perfetto. L'avevo ricordato. E dice... Ok. Diciamo che avete capito quello che voglio fare. Non siete d'accordo con me? No, io sono assolutamente d'accordo con te. Infatti sono interessato. Non mi devi neanche dire. Non mi devi neanche convincere. Mettiamola così. Perfetto. Rimane il nostro ospite. Sono d'accordo, ma a questo punto Adone prova un po' a sforgersi per vedere che Yel cosa sta dicendo. Che espressione ha in questo sul viso in questo momento. Essendo mezzo meccanico, tutte le espressioni di Keyel sono un po' spasate. Però è... cioè, lei è sempre un po' superiore agli altri. Da un'occhiata a Keyel, poi torna a guardare e dice... mettiamo caso che tu riesca anche a convincere tutti gli altri. Sono d'accordo con Keyel nel domandarmi l'utilità di questo piano. Credo che... Dico, ma non ti rendi conto di quello che... quel maggiordomo sa assolutamente di più di quello che vuole... Assolutamente sa di più di quello che dà, che vuole dare... far capire, ma siamo bloccati da un cerchio magico. Ok, mettiamo caso che la nostra abilissima compagna di sfortune lo sappia distruggere, perché sono sicuro che lo sa distruggere. Come facciamo a passare inosservati, non farci scoprire dall'impero ed eventualmente... riuscire a ottenere le informazioni che vogliamo senza farci uccidere dal maggiordomo? Allora, io sono dell'idea che il maggiordomo stia tradendo l'impero insieme alla principessa o a quello che ne resta. Quindi... senza dubbio la principessa è un anello debole, mettiamola così, ho detto un po' cattiva. Sì, diciamo che non sappiamo che fine abbia fatto. Siamo d'accordo che la principessa... appunto parla Devin, dice vedo che siamo d'accordo sul pensare che la principessa non è più la principessa completamente in un modo e hai notato che alle guardie non sapevano nemmeno che fosse lì nella cattedrale. Esattamente. Non ce la raccontano giusta. Sono dell'idea che se riusciamo a srotolare questa matassa faremo la sicurezza dell'impero, quindi non andremo nei casini e in ogni caso stiamo solo cercando di essere dei bravi cittadini. Dei bravi traditori? Pensi che se veniamo beccati non riescano a rigirare la frittata contro di noi? Esatto. È facile passare da eroe a eretico. Guarda quello che è successo a quello che è fuggito. E ti guarda, Adone! Tipo... vabbè, ne parleremo dopo. Però... però sono d'accordo sul tuo piano. Non dico sia una cattiva idea quella che hai pensato, ma è ambiziosa e dobbiamo sicuramente organizzarla bene, convincere tutti tanto per cominciare. È quello che cercherò di fare domani. È importante che facciamo questa cosa prima che finisca la quarantena, altrimenti se lo aspettano. Per ora Aidor... Aidol? Aidos? Come aveva detto che si chiamava il maggiordomo? Lui. Aidos. Per ora lui è convinto che noi siamo rinchiusi qui dentro come cani e che non possiamo farci nulla. Lo vedo che va e viene da questo rifugio a... la camera dove dovrebbe essere. Raga, ho laggato, Cos'è che ha detto? Pensa che siamo rinchiusi qua come cani. E che lui passa dal rifugio che ha qui vicino a la cattedrale dove dovrebbe esserci la principessa, fino alla centrale, insomma, so i giri che fa. Non ho idea di cosa stia facendo di preciso. Però non sembra niente di legale. Comunque un minimo di insider trading con l'impero ce l'ho. E le cose che sta facendo non credo siano legali. Però allora la bolla non può essere il campo non può essere distrutto, perché il distrutto allerterebbe chiunque. Quindi avete un modo per bypassarlo mantenendolo integro. Esatto, KL può semplicemente rescindere il nostro legame col campo e permetterci di attraversarlo come se fosse una cosina di luce quale è. E questa cosa non allerterebbe nessuno? Non hanno modo di accorgersi. Perché non ci stanno seguendo, cioè non stanno verificando che ci siano effettivamente determinate persone all'interno di questo edificio. Negli ultimi due giorni ho controllato, non ci sono guardie intorno. Nessuno viene a pattugliare se non quando ci portano da mangiare. E nemmeno tracce magiche di oracoli o quant'altro? Io non ho percepito nulla. Kiel non ha percepito nulla. Prima di questa simpatica conversazione di stasera con più ospiti del previsto, ci eravamo già accordati di controllare se fossimo spiati e sembrerebbe di no, sembra che si fidano di noi. In effetti niente di quello che hanno fatto finora faceva presupporre il contrario. D'altronde hanno portato via solo Rodvold. Che piano avresti in mente quindi per convincere gli altri? Vabbè, Zanzan con qualche cosa sono sicuro che la... Gideon credo che sia facile da convincere. Esatto, la verità, the pursuit of truth è la sua ragione di essere, quindi l'unico sono abbastanza problema sicuro. È Naya. È una bravissima persona, proprio per questo non so se si esporrebbe così tanto. Kiel sostiene che sia maledetto e che può liberarlo dalla sua maledizione. Secondo me è una buona moneta. E Adone è tipo... Ok. Inoltre... Kiel sa delle cose su Ivan. E credo che qua finisca quello che posso dirvi. Vabbè, insomma, quindi hai un modo di convincerci tutti. Esattamente. Quello che vi chiedo è semplicemente di accompagnare ognuno di voi, sa fare qualcosa, per quanto questo sia un mio grande rammarico ammetterlo. E insieme dovremo riuscire a trovare del marcio sul maggiordomo e o ricattarlo o comunque scoprire la verità. La storia della centrale non è ancora per niente chiara, anzi quando avremo svolto la cosa ci direte cosa c'è nel nucleo. Per ora non lo fare. No, chiaramente. E avete modo quindi di scindere i vostri contratti? Sì, che Yal può farlo. Ha modo. Va bene. Ovviamente dopo che lo fa ci saranno delle conseguenze, motivo per cui dobbiamo essere, cioè lo possiamo fare una volta sola e dobbiamo fare tutto nella stessa serata. Dici che conseguenze come le ali del ragazzino che sono spuntate e ha quasi ucciso... Qua interviene Kiel, che intanto sta fumando, perché questo è quello che fa Kael, fuma. Vabbè. Non c'ha più i polmoni, che cazzo, esatto, gli da c'è? Non posso dirvi i dettagli, ma posso dirvi che da qualche parte nel mondo, quando farò questa cosa, succederà qualcosa di brutto. Quindi sposterai la morte semplicemente su qualcun altro? No, no. Il contratto è bindato sotto qualcos'altro, quindi. Già. E bisogna liberare quella cosa affinché io possa rescindere tutti i contratti. Tutti i nostri contratti. Vedi che Adone sta per dire qualcosa e mi dice... Ma quindi tutti i contratti nascono da quella cosa? Non tutti, solo quelli fatti bene. Ah. Spiegherebbe so... la bug. Voi non mi conoscete, ma Devi e gli altri sì. Sono la massima esperta in fatto di contratti nel mondo. Per questo lavoro alla centrale di lavoravo alla centrale di Oclica. Dopo questo non credo che lo farò più. No. Credi che sciogliendo quella cosa, diciamo, si scioglieranno anche altri contratti? No, no, no. Praticamente posso scegliere di farlo in un ambito, cioè con uno scopo preciso. Però appunto ci sono degli effetti laterali per questa cosa. Comprendo. Ok. A questo punto Adone guarda Kael e le fa: riguardo quello che ha detto Maria l'altro ieri, quando mi è saltata addosso? Sì, esattamente. Tu davvero non sai niente di quello che è successo con il vescovo e le sbarre? Non ti sto accusando, onestamente credo che Maria abbia fatto un errore nell'accusarti in quel modo senza avere delle prove concrete ed effettive. Ma è pura curiosità la mia. Lei si sta grattando quel poco di carne che le è rimasta in faccia, che per la maggior parte è metallica, e ci mette tantissimo a risponderti guardando a destra, a sinistra, e poi dice: c'era un'epoca in cui le persone diverse erano trattate come mostri, nessuno si fidava di loro, e temo che sta tornando alla stessa epoca. Ok, domanda Pjanic: ha capito Adone di quale epoca sta parlando? Perché io credo di sì, cioè io credo di aver capito, e credo che Adone lo saprebbe. Mettila così: Adone ha capito quanto hai capito tu. Perfetto. Adone dice: ok, non hai esattamente risposto alla mia domanda, ma mi hai dato delle informazioni importanti. Com'è che pensi che stia succedendo tutto ciò? Non ho la quale idea. Non tanto, scusami, non il come, ma com'è che pensi sta cosa? Cioè, perché la pensi? Quanto conosci bene quella donna? Maria? Sì. Non la conosco. La conosco un pochino meglio di te. E senza che entri troppo nei dettagli, io e lei siamo complementari sotto alcuni punti di vista. A rendermi così è stata... E sorride con il suo sorriso meccanico e dice: l'oscurità che ho dentro. Mentre qualunque cosa le succederà dipenderà dalla luce che lei ha dentro. Ok, vedi che Adone è un po' confuso. Davide è tipo, ma di cosa cazzo sta parlando? Sta... E non dice troia, cioè, ma lo pensa. Crede di aver compreso, ma al tempo stesso no. Ed è preoccupato delle implicazioni. Quindi è un po' un mix di emozioni. Te ne fa. Credo di aver compreso in parte quello che, di cui stai parlando. Ma forse ne parleremo meglio un'altra volta. Quando avremo fisso i contratti sarà più facile parlarne poi. Ma ora ci sono tante cose che non posso dire. Tra l'altro credo che dopo di questo io non sia proprio più in grado di interrompere i contratti. Anche volendo, dico. Perché qualcuno ti fermerà, cioè bloccherà la tua, il tuo accesso, passiamo il termine. Credo che sia più una cosa fisiologica, come se avessi perso la possibilità di andare contro i contratti. È difficile da spiegare, ma lo sento molto vero. Devin la sta guardando come se fosse stupida, tipo... Adone letteralmente le vorrebbe dire, fra, facciamo un esperimento, però poi pensa, no, evitiamo. E Adone dice... Non posso dire di capire, è una bugia. Però... Vabbè, basta. Ci sarà tempo per discutere queste cose. Sono contenta che abbiate deciso di partecipare nella nostra piccola birichinata. Ma piacere mio. E poi ho delle cose da chiederti riguardo quello, e indica il suo sigillo. Quando sarà il momento? Dopo tutto questo. Esatto. Come avrai intuito, potevo andarmene molto tempo prima. Dalla cattedrale, dalla centrale, da qui. Per ora ho scelto sempre di non farlo. Non credo sia pura curiosità la tua. In parte la è. In parte è che credevo fosse la cosa giusta. Beh, per quanto mi riguarda la trovo una cosa nobile da fare. Non mi ha portato bene per ora. Però lo rimane. Ciao! Bene, sarà meglio tornare dagli altri, altrimenti si insospettiranno. I due annuiscono e concordate di tornare un po' per volta. Cioè, non tutti insieme. Beh, e per me basta, cioè è finita qua. Ok. Perfetto. E io devo iniziare a macchinare. Ah, figurati.